Allora, come vedete, questo discorso è abbastanza duro, difficile, stiamo rivedendo i termini, per voi che non avete esperienza filosofica, pian piano, però vedrete un po' più di capisce, speriamo, le cose che comunque non fossero chiare, questo volevo dire, voi dicite nelle ore di riferimento, sono sempre un po' problematiche per mettere mille volte, ma ci riesce, perché meglio quello avere una spiegazione diretta piuttosto che arrivare all'esame senza delle spiegazioni chiare. È un punto sostanziale. Poi l'esame di terzo anno, come quello che voi fate, insomma, presenta un senso di responsabilità, una responsabilità maggiore, insomma, Quindi, l'altra volta vi ricordate che abbiamo parlato di quel punto nodale che era quello dei trascendenti. Ognuno forse ha i suoi trascendenti, cioè quando gli vengono delle immagini improvvisamente dal suo, dal fondo del suo cuore, e non sapevo, perché la caratteristica dei trascendenti è il fatto che noi non ne siamo a conoscenza. Ha capito? Lei può avere, con quest'aria così da madonnina triste, potrebbe avere dei trascendenti per cui in un certo momento spacca tutto in casa, no? Tutti vengono colpiti, ma guardate che questo è talmente giusto, talmente vero, che se voi tenete conto dei fatti di cronaca in cui ci sono delle persone inappuntabili, impeccabili, che improvvisamente distruggono la loro famiglia, mettono una villeggiatura in montagna, che era a Bolzano, c'era un banchiere con famiglia, tutto perfetto, impeccabile, eccetera, un giorno ammazza la moglie e i tre figli, e si uccide, erano i trascendenti che avevano operato in lui. Sentite come questi via dei trascendenti rende, come dire, mosso il panorama intellettuale di Valerino, cioè non è semplicemente colui che dice la ragione soprattutto e le cose vaghe le mettiamo al bando, ma è quello che riconosce l'esistenza, vedete, riconosce l'esistenza anche di forze irrazionali che sono terribili dentro di noi. Anche se vi ricorderete, lui diceva che non solo il vago, come lui lo chiama, o il metafisico, che si voglia, è indistruttibile, quindi non c'è niente da fare. Noi abbiamo il trascendente, l'indistruttibile, il vago dentro di noi, ma è anche utile, perché il netto, il logico, si può poi, può prendere forma solo in diretto riferimento con questo magma irrazionale che è dentro di noi. Avete capito? Cioè, se noi fossimo fatti soltanto di logica, la nostra vita sarebbe infrequentabile, invivibile. Infatti, tra poco stiamo per vedere di un personaggio che era fatto solo di logica, in cui il vago era completamente messo al bando, e questo personaggio viene indicato dallo stesso Valerio come per l'appunto atroce, infrequentabile. Sempre sulla linea di questo, quindi, mancato positivismo, di questa contemplazione anche degli aspetti come irrazionali della nostra esistenza, c'è questo passo di cui non vi ho fatto ancora copia, ma pare che il senso è molto chiaro, quindi lo posso semplicemente leggere e ve lo spiego. Dice così: per chi non fosse interessato, da Pelle, nel secondo volume della Pleiade, pagina 645. Trovo indegno volere che gli altri siano della nostra opinione. Ecco, in fondo quello che noi cerchiamo di fare sempre è di convincere l'altro della nostra opinione, no? E lui dice questo: trovo indegno che gli altri siano, no, volere che gli altri siano della nostra opinione. Il proselitismo mi sbalordisce. Diffondere il proprio pensiero? Ma come? Diffondere il proprio pensiero senza le correzioni, l'assurdo che lo nutre, lo bagna, senza le sue condizioni? Diffondere ciò che io vedo, falso, incerto, incompleto, verbale, ciò che non sopporto, che a forza di ritocchi, di asterischi, di parentesi, di sottolineature, a forza di ritocchi possibili, di correzioni di data incerta. non è un G4. Allora, ripeto a questo punto, trovo indegno volere diffondere il mio pensiero, no? Perché dice, perché come faccio a diffondere un qualcosa che è sempre incerto, confuso, incompleto, verbale, ciò che io non sopporto, che a forza di ritocchi, di asterischi, parentesi. Questa osservazione è molto interessante. Perché? Il pensiero vero, cioè un pensiero che non sia indotto a slogan, un pensiero che in qualche modo assorba il nostro sforzo interiore, non è una bella frase. Diffidate dal punto di vista intellettuale delle belle frasi, possono piacere all'orecchio, alla nostra sensibilità, ma di fatto le belle frasi non sono spesso dei bei pensieri. Qual è un bel pensiero? È un bel pensiero. Un bel pensiero è un bel pensiero quando è vivo. Quando è vivo. Quando ha un contatto con l'esistenza. No? Ciao di un evento, per esempio. Non è un bel pensiero di un tizio che si chiamava Kant. Ecco. Il bel pensiero del tizio che si chiamava Kant, voi lo conoscete, dovreste conoscerlo dalla scuola, negli occhi, giovani. È imperativo categorico. Lei lo sa qual è l'imperativo categorico di Kant? Lei tanto che scuola capisce quello che non so. Che studia Kant? Sì. Però invece lo sa, vedrà che non l'ha. L'imperativo categorico è questo, quando tu agisci, una qualunque cosa, ascolti, stai chiama? Quando tu agisci, dice Kant, tu devi agire in modo tale che la tua azione possa servire di massima, di esempio, a tutti. Questo è il grande principio della morale. Va bene? Allora, tu puoi fare uno stupro? No. Perché se tu fai uno stupro e tutti si adeguassero alla tua norma, il mondo sarebbe pieno di violenza. Puoi uccidere, puoi rubare? No. Va bene? È chiaro? Questo è il grande principio di morale laica che Kant aveva inventato. È chiaro il punto? Bisogna che quello che tu fai possa essere usato come modello per gli altri. Tu dai la carità a un povero, questo è un fatto morale o no, secondo lei? Sì, perché se anche altri danno la carità ai poveri, il mondo indubbiamente diventa migliore. Bene, allora voi sentite che la bellezza di questo pensiero nasce dal fatto che un pensiero pieno di vita, di esperienza, di esistenza. Quindi tutti i pensieri, per essere veri, debbono essere, come tra poco vedremo, debbono essere pieni di esistenza. Ma questa esistenza di cui i pensieri sono pieni, fa sì che i pensieri non siano dei gioielli perfettamente levigati, ma siano appunto pieni di ritocchi. D'altra parte, una qualunque grande pagina di uno scrittore, noi la vediamo naturalmente nella sua forma splendida, ma immaginate quanti sacrifici, sforzi, correzioni, ritocchi ci sono stati per arrivare a quella forma. Allora, siccome io so molto bene, dice Valéry, quanto sforzo, quante correzioni, quanti ritocchi ho fatto perché un mio pensiero fosse nella forma presentabile in cui sono riuscito a metterla, come faccio poi a fare dei proseliti? Il mio pensiero è pieno di incertezze, di correzioni, nulla è più stupido di cercare di persuadere un altro della propria opinione. Questo è abbastanza rivoluzionario, una frase di questo genere, perché normalmente se tu vai al bar e vedi delle persone che stanno parlando tra di loro, vedi che uno cerca di persuadere l'altro delle sue proprie idee, no? Anzi, direi che quanto più uno è sciocco, tanto più si incaponisce a persuadere l'altro di un'idea alla quale l'altro non può essere persuaso. Non può essere persuaso. No? I cretini, questa è una cosa molto interessante, si riconoscono da molte cose, si riconoscono dallo sguardo a sette, dal fatto che la luce dell'intelligenza nei loro occhi non sembra avere mai altro caso. Ma si riconoscono anche da questo piccolo fatto. Sono quelli che fanno la lezione su tutto. Voi ne troverete tra amici e amiche che ti vogliono dire come metterti, lei usa il rossetto, di fare un'opera. O forse sì, un rossetto nuovo, da leggero, è vero? Ecco. Ma magari troverà l'amica che le dice che quel rossetto è troppo debole. È la stessa amica che potrebbe dirle qual è il mezzo migliore, lei dove abita? Quindi dico, ma mettiamo che lei avesse un problema di autobus per venire qui, la mica della testa del rossetto che dice che se usa due altri autobus arriva prima, è la stessa che le dice che deve seguire una certa dieta particolare per evitare un accumulo di carboidrati, è la stessa che le dice che se ha l'influenza deve prendere quel farmaco e non quell'altro, è la stessa che le rompe le palle, sostanzialmente. Perché è una battuta, e mi sta seguendo lei, Io poi ho l'impressione, volevo dire questo, che lei dovrebbe sta seguendo un po' al tempo, se ha delle difficoltà, venga a chiedere, capito? Perché non ho la sensazione che avete molto visto. Quindi venga a chiedere le cose che non capisce. Perché nessuno nasce, come si può dire, imparando. Nessuno. Però la cosa stupida è che quando tu non capisci qualcosa dici che hai capito. Chiaro? Quindi sempre conto, sono stato implicito, ho sempre l'impressione di non essere abbastanza esplicito, lei dice lo so. Quindi il cretino è quello che fa la lezione su tutto, il cretino è quello che vuol persuadere della propria idea all'altro, ma vediamo, un fascistaccio, va bene, può essere persuaso dalle sue idee, da un'ideologia molto forte, da, diciamo, usando vecchie terminologie, da un comunista, no? Posso persuadere un cattolico di Comunione e Liberazione delle istanze razionali e illuministiche a cui io credo? No, non è possibile. Se cerco di farlo, sono imbecille. Perché il senso più spaventoso dell'idiozia televisiva è nei talk show in genere. No, io penso sempre a quella donna bionda, a quella donna uomo, nei dibattiti televisivi. È un transessuale, ma palesemente un transessuale, no? Ecco, e c'è quest'idea del potersi parlare e persuadere. Ecco, questa è l'idea di fondo, no? dei perversi costumi contemporanei. Ma non è che la persuasione è sempre possibile. Aggiungerò una cosa, tenete conto di quello che vi dice, la persuasione non è quasi mai possibile. Quasi mai. Io parlo sufficientemente bene, anzi direi che parlo straordinariamente bene. Nella mia vita sarò riuscito a persuadere persone, 2 su milioni che mi sono attratto. Non posso persuadere una ragazza che vuole sposarsi, questo è l'esempio tipico, un uomo che vuole sposarsi a non sposarsi. Vedi quello che ho detto. Avevo persuaso un mio amico, 270 anni fa, a non sposarsi con una che era effettivamente una sua prima. Io lo credo che sono andato prima la sua prima. E lui ha detto ascoltavo, sì, sì. Ecco perché io odio quando uno mi dice sì, sì, sì. Dopodiché dicendo, volevo darti questa cosa. Io dicevo questo cartoncino, che cosa era? Era la partecipazione alle nozze. Questa, come si sposò, lo pratico in un cinese. Forse è molto lunga, capo un cinese. Ecco, e quindi la persuasione, no, amici, non riusciamo a persuadere, avete capito che l'intelligenza della cosa di Valerio, ma che per cerchi di persuadere, no? Il nostro pensiero è così profondamente pieno di correzioni, di incertezze, che non vale la pena per me. L'ha capito bene quello che ho detto. Naturalmente quello che ho detto al giovanotto in verde vale per tutti voi, quindi se c'è qualcosa che non capite venite a chiedermelo, che giusto le ho invece, non per email dicendo prof sono Monica 96 o cosa del genere. Help, ancora mi ricordo di questo help. Monica o Erika 85 e mi chiedeva, vabbè, è una cosa evangelica, il discorso della montagna, che dice beati le beatitudini, no? Beati i poveri di spirito perché di essi sarà il regno del cielo. A un certo punto recita così, beati i miti perché erediteranno la terra. Io penso che non erediterò mai niente. Questo era un concetto che volevo dirvi. Ma non basta parlare soltanto, questa è una cosa molto più sottile, parlare soltanto del fatto che il pensiero non vale la pena tra proseliti, perché è pieno di ritocchi, perché appartiene a noi, perché è incomunicabile in certa misura, non basta di questo. Quello che vale lì iniziamo è che un pensiero vale di per sé, se vale, indipendentemente dal suo autore. Cioè il fatto che un pensiero importante l'abbia fatto Paolo o Carlo è irrilevante. Quindi quelli che si gloriano di aver fatto un certo pensiero sono degli imbecilli, perché la cosa che importa è il risultato. Il pensiero che abbiamo detto prima di un tizio che si chiamava Immanuel Kant, no? Quello dell'imperativo categorico, è bello di per sé, è giusto di per sé, poi il fatto che l'abbia fatto Kant o l'abbia fatto Giuseppe o Cesare non conta nulla, avete capito? È un altro modo, perché normalmente appunto invece noi troviamo questa borgia. Questa borgia, voi dite, ma può anche darsi che sia solo un fatto di cattivo gusto? No, no. Chi si vanta del proprio pensiero e non ne vede la sua natura lacunosa, complessa, eccetera, sposta il discorso. Nel senso che lo sposta come se quel discorso, se quel pensiero fosse un fatto suo personale. Lo è, certo che l'ha inventato lui, ma quello che importa è che ormai è messo su un tavolo verde, è messo lì alla portata di tutti, in discussione. È chiaro? Un autore che pubblica un libro, dal momento in cui l'ha pubblicato, il libro non è più suo. Il libro è lì a disposizione dei lettori. Tanto è vero che c'è quell'episodio che giusto appunto riguarda Valéry, quando il bellissimo poemetto di Valéry, il Cimetière Lunaire, venne interpretato all'università, essendo vivo Valéry. E Valéry c'era quest'aula in cui il professore adulto degli studenti interpretava questo bellissimo poemetto. In fondo all'aula entrò Paul Valéry. E il professore, che era qui, penso che fosse là alla porta, vide Valéry entrare. E quindi fu naturalmente imbarazzato, perché stava dando un'interpretazione e l'autore era lì, oltre che essere prestigioso come era l'autore naturalmente. E allora si scusò. Dicendo che questa era l'interpretazione che dava lui, e Valéry, non per valutazione ma per convinzione, disse: ma lei ha perfettamente ragione di dire quello che dice, perché questo poemetto non mi appartiene più, è qua, quindi lei può dare il senso che vuole. Parlava un po' per paradosso, perché quando noi diamo un senso a un testo dobbiamo rispettare delle leggi filologiche che sono ferree, no? Non può trattare, che so, un sonetto di Cino da Vittoria o di Cavalcanti, di Dolce di Nuovo, come se fosse un sonetto di Mallarmé, perché ci sono sei secoli tra l'uno e l'altro, no? Ma detto con tutto questo, è evidente che un testo, quando è pubblicato, appartiene al pubblico. Appartiene anche all'autore, attenzione, ma in quanto diventato lettore. Ma in quanto è diventato lettore, diciamo che quando un libro è pubblicato, e mi capisce bene, l'autore è morto, l'autore è diventato quel libro, l'autore è diventato quel libro, tanto è vero che spesso l'autore scopre dei significati quando il libro è pubblicato, quando è finito, scopre dei significati che lui non voleva metterci, ma ci sono stati, no? cito sempre un caso che riguarda quando avevo 28-30 anni, ho scritto un libro, pubblicato un libro su Proust. Io volevo scrivere un libro sull'estetismo proustiano, l'estetismo e l'antiestetismo. Quando ho finito il libro, mi sono reso conto che avevo scritto sì su questo argomento, ma non era quello l'argomento più importante su cui avevo scritto. Io avevo scritto un libro sul contrasto freudiano tra piacere, senso di piacere e senso della realtà. Su questo argomento avevo scritto. Bene, partiamo da un altro punto delicato e fondamentale che riguarda, eccolo qua, che riguarda la chiarezza. La chiarezza. Quando noi ragioniamo, agli inizi del nostro ragionamento non abbiamo le idee chiare, se no non ragioneremo. Il nostro scopo è di arrivare alla chiarezza. Questo ragionamento può venire da soli, con noi stessi, e può venire con qualcuno. Ci mettiamo lì e ragioniamo e ci chiariamo le idee. Quando viene con qualcuno, magari anche un litigio. No? Di caratteristare, di litigare con il vostro bene amato, con la vostra amica, per chiarire una cosa tra di voi. Per chiarire una cosa. Un disegno. Tanto per rendere la cosa concreta, ieri sera sono stato oggetto di una conversazione telefonica con una persona ben molto cara con cui sono andato. Piccola attrito e non avevo la voglia che la persona mi parlasse e mi rompesse le carte a essere del tutto senso. Però insomma alle persone care molto può essere concesso e perdonato, per cui ho acceduto, parlo al computer, ho salvato al computer supponendo che la conversazione sarebbe stata di un certo peso e mi sono preparato a questa piccola guerra che è una discussione con una persona cara. Trattava una signora, la quale mi accusava di certe cose e io dovevo replicare. Ma in realtà in questo piccolo fatto bisognava chiarire certe modalità di vita, non erano chiarissime né a lei né a me. Ecco, parlando sono diventate chiare. Alla fine rabbonita la mia interlocutrice, Rabbonita, io avevo le palle notevolmente rotte, però mi pare che la situazione si era rimessa a posto e quindi gentilmente si è apprezzati a un concetto. Va bene? Dopo, ho pensato. Ma non è una vera chiarificazione che è avvenuta. O semplicemente a un certo momento c'erano delle necessità oggettive, che io volevo andare a cena, per esempio, che non si poteva parlare in un certo modo, insomma, per cui abbiamo affrettato la chiarificazione. Se al di là della discussione tra due persone, questo viene ricordato dal discorso che noi facciamo con noi stessi quando vogliamo capire qualcosa, ci rendiamo conto che spesso noi ci stufiamo, ci scocciamo di ragionare e chiudiamo il discorso con noi stessi convinti di essere arrivati a una chiarificazione. Leonardo da Vinci, che era uomo di intelligenza discreta, lasciava i suoi pensieri in sospeso in un codice del 1515, mi pare. È un episodio che ho raccontato qualche volta. Lui scriveva dei suoi pensieri e li lasciava a metà sospeso. E naturalmente gli studiosi si arrovellavano per capire tutto quello che voleva dire. Ma poi la seconda cosa, per capire perché cacchio l'avesse lasciato in sospeso. Uno studioso di Leonardo aveva trovato un giorno, perché lui tiene erano quei puntini di sospensione. Che punti di sospensione? Con scritto ecc, eccetera, ecc, quindi non ecc, ecc. Una volta ecc, due volte ecc, a un certo punto quello qua, perché non conclude i suoi pensieri? Che cosa fa sì che non conclude i suoi pensieri? e si è trovato scritto con perfetta grafia di Leonardo nell'interlinea, laddove il pensiero non era concluso, si è trovato scritta questa frase: perché la minestra si fredda. Lo trovate bellissimo, cioè si era stufato di ragionare perché c'è un elemento fondamentale che la minestra si fredda, perché la minestra si fredda, è un filosofo famosissimo questo, eh? Allora, sia tra due amici che discutono tra di loro e arrivano a un certo momento a una clarificazione, ma spesso perché uno non può parlare, perché l'altro è in difficoltà, eccetera, sia quando parliamo con noi stessi, eh? Bisogna poi ritenere che quella chiarezza è semplicemente un patto che noi facciamo con noi stessi. Basta, non voglio più continuare a ragionare. Ma ogni chiesa è una convenzione. Questo è vero e non è vero. È vero nel senso che effettivamente spesso l'ignoranza è una convenzione. Ma è anche un po' paradossale. Perché Valerio ci dice questo? Ci dice perché dobbiamo diffidare delle facili soluzioni. Ciò che è facile è sempre da diffidare. Colgo l'occasione per dire una cosa bellissima che diceva Valerio. Quali sono i libri veramente importanti della mia vita? Sono tutti quelli che sono stati difficili. Sono i libri difficili, quelli che ho durato fatica a leggerli, a capirli, mi hanno dato qualche cosa, non i libri facili. Questo è vero? È vero? È vero e non è vero. Perché ci sono delle cose facili che io ho capito, e non è per questo siamo sciocchi, ma è vero però che nella difficoltà ci sono spesso delle cose bellissime che non possono essere dette in modo facilmente, che quindi posso risolvere. Una volta facevo gli esami con un collega che è tuttora operante, che è un idiota, e a pranzo dopo, bisogna di quando voi non eravate, non erano nati nemmeno i vostri nonni probabilmente, lui dice, vedi il libro che è interno degli esami, io l'ho fatto un seminario, e dice che era professore era un po' più grande di me, allora era un professorello, sono vero, a mangiarti, sono quelli che hanno avuto la cattedra, hai capito però? È un'integrazione. Se tu fai quel libro, a questo libro io non ci capisco niente. E io pensavo, beh, non basta, non ci capisco niente. E il fatto che, questo è il sillogismo drammatico, tra poco mi spacco il braccio, e il fatto che non ci capisca niente vuol dire che il libro è stupido. Avevo il settimo. Uno era il consiglio di lettore autore, uno era il saluto alzò francamente detto francese. Il fatto che non ci capisca niente vuol dire che il libro è stupido. Questo fatto mi si è accumulato dentro in una sorta di rancore ingestibile nei confronti di lui, e dopo tanti anni gli ho praticamente tolto il saluto, perché anche il saluto bisogna pensare o controllare. No, non tutti i cretini hanno diritto a salute, ci sono cretini italiani, italiani. Ma uno deve parlare di questo genere, ma è possibile. Parlo un po' per paradosso, ma mica no. Vediamo se riusciamo a infilarci qualche altra. Ah! Ci infiliamo una cosa bellissima. Ma secondo voi un uomo come Valerio era religioso o no? Lei mi dice? No, no, era un laico, illuminista, Quindi questo è il punto settecentesco, più così, razionale, chiaro il discorso. Allora, per lui la religione è un'insensatezza. Abbiamo detto che la religione è la che tiene nella fisica, come l'amore, come l'io, come l'assoluto, perché certamente la religione non si può dimostrare. No? Si può dimostrare la religione, ma quando mai? Ma quando mai? Lei sì, io parlo con il potente, l'ha visto mai in faccia? Io sì, però, ma nessuno visto in faccia. La religione è indimostrabile. Allora il discorso religioso è un discorso metafisico, un discorso da cantare. Salvo che per un aspetto. Salvo che per un aspetto. Perché il discorso religioso va incontro a una percezione precisa di quello che lui chiama il contrasto tra l'adattato e l'inadattato, adapte, inadapte. E mi spiego. E mi spiego. Ci sono delle cose nella vita che tornano, che non lasciano spazi. Ed è per esempio questa una cosa che torna. Io ho fatto un lavoro, l'ho fatto bene, d'accordo? A seguito del lavoro fatto bene, ho avuto successo. Funziona, no? Oh, ho avuto un rapporto amoroso. Un tono dovrebbe venire al Dio da me. Non so quanti di me ho parlato, eh. Il corso è funzionato in modo meraviglioso. No? Allora, un chiodo mi fosse. Avevo un martello, ho messo il chiodo per attaccare un... Cos'è che attacco? Un chiodo? Guarda. Sul muro, ho battuto in modo regolare con il martello, il chiodo si è infilato in modo perpendicolare al muro. Quindi sono esempi di adattato. Le cose hanno funzionato. Ci sono naturalmente infinite di cose che funzionano. L'interruttore della luce elettrica lo gira, si accende, si spegne. Gli esempi sono infiniti. Però esistono cose infinite, esempi infiniti di inadattato. Prendiamo delle cose più normali e diciamo così, perché non vengono pensiero. C'è l'interruttore della luce, lo giro, l'interruttore dovrebbe far accendere la luce, ma la luce non si accende. Avevo un chiodo, però per mia liquizia tecnica, diciamo così, battendo sul chiodo l'ho battuto male, per cui anziché entrare in perpendicolare è entrato tutto distorto, non riesco ad attaccare il quadro. Andiamo avanti con cose più consistenti. Sto facendo un lavoro, questo lavoro lo faccio bene, nonostante questo, anzi scusate, quello del chiodo cancellato come esempio, perché funziona così invece. Avevo il chiodo, ho battuto bene con il martello il chiodo, nonostante l'abbia battuto bene con il martello, sto cazzo di chiodo è entrato male. Perché? Perché c'era qualcosa dietro. Stavo facendo un lavoro, facevo bene questo lavoro, quindi aspettavo un buon risultato, ho avuto un fallimento straordinario. Questo è l'inadattato. Sentite questo esempio squisito di inadattato. Ho cercato il successo, ho avuto il successo, dovevo essere felice, non sono felice, per te, bellissimo questo. Ho cercato il successo, ho operato per averlo, l'ho avuto, pensavo che avendo il successo sarei stato felice, e invece non ce l'ho. Allora, dice Valerio questo, che cos'è Dio? Dio è quel qualcosa che tu chiami in causa disperatamente quando, in un caso come quello che vi sto raccontando adesso, ho cercato il successo, ho avuto successo, dovevo essere felice e non sono felice. Quando tu senti che c'è qualcosa che non funziona nella vita reale, c'è qualcosa che i termini non collimano. Se tutto fosse completamente adattato, va bene? Io, l'idea di Dio non esisterebbe. L'idea di Dio si pone nel momento in cui vedo che le cose non vanno come vanno. C'era un paese che si chiamava e si chiama l'Iraq. L'idea era di andare lì, di far fuori il bastardo che stava a capo dell'Iraq, dopodiché tutto sarebbe tornato tranquillo. Sono andati lì, hanno fatto fuori il capo dell'Iraq, ma tutto non è tornato per niente tranquillo. Dio spunta fuori, l'ipotesi di Dio, e quindi la verità del discorso religioso, solo nella misura in cui noi vediamo la presenza dell'inadattato. Questo non vuol dire che Dio esista, assolutamente, dice Maria. Però certamente il discorso religioso, l'ipotesi di Dio, la chiamiamo in questo modo l'ipotesi di Dio, spunta fuori ogni volta che vediamo che le cose non tornano. Sono fedele, amo mio marito, eccetera, eccetera, e mio marito non mi ama. Ma perché non mi ama? Che cosa faccio per non farmi amare? L'inadattato è che ci assedia continuamente nella vita. È chiaro il punto? Bene, adesso la trovate, e noi ci vediamo invece per questo corso.